3강 어휘 bandiera capitale città fiume paese ragazza ragazzo rosa tomba torre nazioni America Cina Corea Francia Germania Giappone Inghilterra Italia Portogallo Russia Spagna colori bianco blu giallo grigio marrone nero rosso verde aggettivi alto asiatico basso bello brutto corto europeo giovane grande grasso interessante lungo magro nuovo piccolo pieno povero ricco sottile spesso vecchio vecchio vuoto come quale molto di è ma o 문형 è bianca la rosa? Sì, è bianca. Com'è l'Italia? È bella. Sono rosse queste penne? No, sono nere. Qual è la capitale d'Italia? È Roma. Seul è una città grande? Sì, è molto grande. È un paese europeo la Corea? No, la Corea è un paese asiatico. 대화. Di che colore è la bandiera coreana? La bandiera coreana è bianca, nera, blu e rossa. Qual è la capitale della Corea? È Seul. Seul è una città grande o piccola? È una città molto grande. Com'è Gyeongju? È una città piccola, ma è bella. Sono grandi o piccole le tombe di Gyeongju? Sono molto grandi e alte. Interessante.